perché una cosa funzioni ci vuole tantissimo. Bisogna farne veramente di tutti i colori per poter far funzionare una cosa. E non è detto che poi funzioni. Cioè, tu alla fine prendi ruota dentata, la fai girare, la fai incastrare con tutte le altre cose. Soprattutto bisogna mettersi d'accordo con le persone intorno, perché voglio dire, la ruota si gira, però le persone intorno stanno sempre lì non soltanto a testimoniare quello che sta succedendo, ma si muovono proprio loro stessi, cioè comunque stanno lì. Non è che puoi tanto far finta che non c'è un che non è un pubblico quello che sta intorno, ma che è parte dell'azione. E quindi farlo funzionare è dura, perché poi comunque c'è chi rimane impigliato, c'è chi non vuole rimanere impigliato, però alla fine poi ci prende gusto, chi vuole rimanere impigliato e invece non ci riesce, perché non a tutti riesce. Insomma, questa è la situazione. Una situazione che comunque si può trascinare per giorni, o che comunque può tranquillamente anche finire in litigi, in situazioni di non comprensione e via così. Comunque, vabbè, insomma, questo è un discorso molto anche generico, se vogliamo. Ma insomma, proprio perché la situazione è una garanzia di quella banale universalità che attiene semplicemente al fatto che forza, parliamo di materiali quasi inconsistenti, perché tutto sommato la percezione e il linguaggio sono un'inconsistenza fatta entità, e fatta a sua volta ancora discorso. I tasselli non combaciano mai poi alla fine.